Moscou. Tout le monde dit que la plus belle ville du monde est sans doute Paris. Ça ne me vexe pas, au contraire je ris. J'instaure le débat et je vais être précis. Y'a pas d'enfer, y'a pas de paradis. Moi j'aime ma cité et c'est pourquoi j'y vis. Dans la compétition au titre par catégorie. Si Paris est la plus belle, Marseille est la plus jolie, yeah. La Canebière, le Vieux-Port et Notre-Dame de la Garde. Les réformés, le cours Julien, la Plaine et la gare Saint-Charles. La rue Loubon, Palais Longchamp, 5 avenue, boulevard Chave. Rue de Lyon, la place d'Aix, le cours Lyoto et Castellane. C'est un rendez-vous à Marseille, là sur le quai. Voyage au pays des merveilles, ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous, avec la cité qui vous rendra fou. Blanc, son écolo, le ciel est grand, oh que calo, rire d'enfant, la nuit est l'audio, Bruno son, libère les amours. Es ma suta madonna, ma capitale. Es ma nación, ma duso, ma general. Es un nido, un bater, un recadí. Oh, mon bel jardin, dei delici, dei delici. Spéciale dédicace à tous les amuseurs, à ceux qui font danser les Marseillais. À tous les ragamuffins, les rockers, les rappeurs, et à tous ceux que j'allais oublier. J'écris une épitaphe, encore deux ou trois taffes, j'enterre la tristesse et le stress. Je profite du rythme, j'assure l'intérim, j'évacue la pression, je me redresse. Fais bouger tes pieds, tes genoux, tes hanches et puis tes épaules. Plus on rit, plus il y a de fous, plus on est fou, plus on rigole. Il faut chanter avec passion, organiser des farandoles. Écoute, fais bien attention, mais apprends vite les paroles. C'est un rendez-vous à Marseille, là sur le quai. Voyage au pays des merveilles, ensoleillé. C'est un rendez-vous, dépêchez-vous, avec la cité qui vous rendra fou. Fayavang, vali mon pichou, siamo legan, di nu canto. Rouge et sang, sous les poteaux, toujours des flammes, sous les canceaux. Es ma suta madonna, ma capitale. Es ma nación, ma douce, ma general. Es mon nido, mon bater, mon recadí. Oh, mon bel jardin, dei delici, dei delici. Là sur le quai. Ed allora, invece di avere un appuntamento a Marsiglia, noi andiamo a vedere che cosa è successo, che cosa ci raccontano i vari giornali, sia locali sia nazionali, riguardo la situazione dei Rom e dei Sinti, come titolano, per esempio, sempre per entrare in argomento e vedere come vengono descritte queste persone. Per esempio, andiamo a vedere cosa ci dice La Nazione di due giorni fa, Pisa, 12 marzo 2013, oltre 20 militari impegnati nel nel corso di una vasta operazione anticrimine concentrata principalmente nei rom della Bigattiera e di Coltrano. I carabinieri, la stazione San Pietro Grado insieme alla compagnia Pripipparavà, insomma, operazione anticrimine e campi rom, sempre insomma delle connessioni abbastanza evidenti. Ancona, controllore chiede di vedere il biglietto, il rom gli dà un, secondo quanto si apprende il controllore ha chiesto al passeggero un rom di poter vedere il titolo di viaggio, ma l'uomo gli ha assestato un pugno in faccia e si è allontanato. Il controllore ferito è stato soccorso da un collega, questo ce lo racconta il giornale, che però insomma giornale online, che già altre volte aveva raccontato delle cose abbastanza ambigue con protagonisti rom. Ricordiamo l'articolo di una persona ferita da un colpo d'arma da fuoco, e siccome nelle vicinanze c'era un rom che probabilmente stava facendo un borseggio, il titolo univa tutto e diceva che un rom, mentre stava facendo stava rubando un portafoglio, nello stesso tempo spara a chi si accorge di tutto questo, praticamente una specie di Superman. Poi, leggendo bene l'articolo, ci accorgemmo quando lo leggemmo all'epoca che era tutto un forse, avevo la sensazione, mi sembrava che, non ho visto bene, però di fatto l'articolo ci raccontava, ci faceva, se ti limitavi a leggere l'articolo capivi che insomma queste persone sono veramente brutte, sporche e cattive, come vengono descritte fondamentalmente quasi sempre. Vediamo invece che cosa succede a Villorba, in provincia di Treviso. Una casa dove abitavano delle persone rom va a fuoco, e la Tribuna di Treviso titola così: a fuoco la casa dei rom, bimbi intossicati. Villorba, fiamme all'alba, cortocircuito o attentato? Emilio Levac chiede una casa al sindaco, Serena risponde: non ce n'è. Un incendio è divampato all'alba di ieri in via 4 novembre, distrutte le case prefabbricate della famiglia Levac, un ceppo rom insediatosi a Villorba ormai da 20 anni, l'intera famiglia è finita al pronto soccorso, 2 bambini sono rimasti intossicati in modo non grave. Nel pomeriggio sono stati dimessi, la famiglia è tornata in via 4 novembre, ma la casa era già stata dichiarata inagibile. Sulle case giallo, ieri pomeriggio gli uffici giudiziari dei Vigili del Fuoco erano ancora sul posto. A quanto pare le fiamme si sono sviluppate dal cortocircuito di un frigorifero che era situato sul retro di un magazzino, ma non si escludono altre ipotesi, neppure il dolo. Le fiamme sono divampate in pochi minuti, prima delle ore 7, nell'area che si trova all'inizio della strada, la strada che da Villorba porta a Povegliano, vivono molte persone e anche al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco la zona era affollata. Il lavoro per i pompieri è stato lungo, solo verso l'una le fiamme sono state completamente spente e la zona messa in sicurezza. Le case però ne sono uscite completamente distrutte, tanto che è stata negata l'agibilità. All'interno vi risiede dalla fine degli anni 80 la famiglia Levac. Si tratta di ex nomadi provenienti dall'est, bellissimo, ex nomadi, che a Villorba hanno deciso di diventare stanziali. Sul posto in mattinata sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale. Le abitazioni, in gran parte di legno e materiale facilmente infiammabile, hanno rappresentato il terreno ideale per l'incendio. Da Emilio Levac, capofamiglia, si è levata davanti ai microfoni dei giornalisti la richiesta di un'abitazione al sindaco. Non abbiamo più una casa, diceva il signor Levac. Il sindaco Serena taglia corto e dice: al comune ufficialmente non hanno chiesto ancora nulla, e ci mancherebbe, gli era stata appena bruciata la casa, ma non abbiamo alloggi per le emergenze abitative a disposizione. Taglia corto il sindaco Marco Serena. Immaginiamoci se fosse stata qualche altra famiglia la protagonista di questa triste vicenda, i toni non sarebbero stati sicuramente così freddi. Perché ci occupiamo spesso di come la stampa nazionale e locale descrive le persone rom? Perché è una continua abilitazione, esercitazione ed educazione al razzismo democratico o alla xenofobia democratica, che dir si voglia. Perché bisogna sempre ripetere che queste persone sono delle non persone, per fare accettare il fatto che vengono fatte vivere dalle organizzazioni dalle istituzioni in situazioni obiettivamente inumane. Per esempio, è sotto gli occhi di tutti quelli che lo sanno effettivamente, ma anche dell'amministrazione locale di Roma, il fatto che i bambini e le bambine che abitano nei campi attrezzati sono spessissimo raffreddati con la tosse, che questo raffreddore non passa mai. Come dicono ai genitori i pediatri, finirà con la primavera o quando ci sarà il bel tempo. E perché? Perché vivono in condizioni insalubri, perché vivere in un container in 7 persone, in un container che è meno di 30 metri quadri, non è salutare. E 30 metri quadri, insomma, stiamo proprio esagerando. No, 30 metri quadri va bene, scusate, però insomma il numero sarebbe leggermente elevato di concentrazione di persone dentro un'abitazione, che dove devono dormire, mangiare, andare al bagno e tutto quanto. Ed è chiaro che in inverno magari si tengono le porte chiuse, si cambia poco l'aria, e quindi per non morire di freddo, per non sentire freddo, e quindi le infezioni alle vie polmonari fioccano. Di conseguenza, di chi è la responsabilità di questi raffreddori? Di chi dice di accogliere queste persone in maniera degna ed umana? Alla faccia di tutti quelli che continuano a raccontare che non è così, e che quando riescono ad adire le vie legali, e quando anche il Consiglio di Stato, il TAR, dice che in Italia, e specialmente a Roma, c'è la segregazione etnica, perché vengono usati dei fondi per costruire le abitazioni, per costruire dei posti monoetnici, quindi discriminando sia le persone che vengono costrette ad andare ad abitare lì, sia tutte le altre che non possono andare ad abitare lì, quindi si crea una separazione su base etnica. Tutto questo sulle linee, sui nostri giornali, che parlano tanto della mancanza di democrazia negli altri paesi, soprattutto nei paesi extraeuropei, non viene mai fuori. Buzzing dance. kendine eğlensin. O da hava yüzünden ey. Onun da cennori, ne belle, nomi, paroti, ne belle, onun da cennori. E allora noi iniziamo a raccontare, come altre volte è successo, quanto costa il piano nomadi per la città di Roma. Per l'attuazione di questo piano viene previsto uno stanziamento da parte del Ministero dell'Interno di 19,5 milioni di euro, dalla Regione Lazio di 5 milioni di euro e dal Comune di Roma 8 milioni di euro, per un totale di 32 milioni di euro 445 mila. I primi 3 milioni di euro vengono impiegati per i censimenti nelle città di Milano, Napoli e Roma. Censimenti quasi inutili, perché i Rom, se c'è una cosa che vengono, che subiscono sempre, è il controllo, il censimento. Di loro si sa sempre tutto, si sa dove vivono, sia se i campi siano informali, sia che i campi siano informali, e soprattutto moltissimi, la stragrande maggioranza di loro è iscritta alle anagrafi dei comuni dove vivono, oppure è iscritta alle anagrafi, quindi diciamo, stanziare i soldi per il censimento è una spesa abbastanza, diciamo, in un'ottica di spending review bisognerà farne un'altra. I primi 3 milioni quindi vengono impiegati per i censimenti nelle città di Milano, Napoli e Roma. Un'altra parte del denaro viene utilizzato per la ristrutturazione, l'adeguamento, la messa a norma di alcuni villaggi attrezzati. Messa a norma che significa? Condizioni di sicurezza secondo chi? Secondo cosa? Secondo gli standard che permetteranno di spendere altri soldi per situazioni abitative monoetniche e segreganti. Si passa dai 2 milioni di euro spesi per il villaggio attrezzato di Via di Salona ai 716 mila per quello di Gordiani. Per i costi della vigilanza vengono spesi circa 3 milioni di euro l'anno, mentre per l'acquisto di nuovi moduli abitativi viene raggiunta la cifra di 1.300.000 euro. A ottobre del 2010 risultano spesi circa 16 milioni di euro, con un'indisponibilità residua di 17 milioni di euro. Dal 1 marzo del 2012 però la vigilanza all'interno dei villaggi attrezzati passa dai tre istituti di vigilanza Urbe, Città di Roma e Italpol alla società Risorse per Roma, con un impegno di 84 vigilantes. Ci sono poi le spese per gli sgomberi. Per ogni sgombero è stimata una spesa media di 15-20 mila euro, con un costo di almeno 7 milioni di euro in più per i 450 sgomberi realizzati nei due anni di attuazione del piano nomadi. La cifra è di 32 milioni 445 mila euro. Riguarda però solo le spese di finalizzate all'attuazione diretta del piano nomadi. Ci sono poi le spese indirette, quelle per la scolarizzazione dei bambini, circa 2 milioni e 500 mila euro l'anno, i cui progetti dipendono dal Dipartimento Undicesimo di Roma Capitale. E quindi già una grande differenza tra quanto viene speso per la scolarizzazione e quanto viene speso per il controllo, diciamo. Il controllo, l'acquisto di metodi, nuovi moduli abitativi, piripi e parapà. Poi ci sono vengono dati i progetti a 9 organizzazioni per la gestione dei villaggi attrezzati, più di 4 milioni per il solo 2011. Quelli per i centri di accoglienza comunali, che dipendono dal Dipartimento V di Roma, quello per la raccolta di rifiuti negli insediamenti ad opera dell'AMA, a cui vanno aggiunti quasi 100.000 euro per la deratizzazione, mentre quelli per le bonifiche straordinarie dei campi storici, che dipendono dal Dipartimento Ambiente di Roma Capitale, per esempio per il campo dove sorgeva il campo di La Martora è stata preventivata una spesa di 600.000 euro, mentre per la bonifica del nuovo campo della Barbuta è già spesa la somma di 530.000 euro, quella per i bagni chimici presenti in molti insediamenti definiti tollerati quasi 200.000 euro anno, e quella per gli straordinari del personale delle forze dell'ordine. Solo per i vigili urbani il costo è di 500.000 euro, quello per le borse da lavoro sono 1.600.000 euro l'anno, e quelle date alle cooperative Rom per l'erogazione di prestazioni sociali. Dopo la tragica morte dei quattro fratellini, di cui abbiamo già parlato, che facevano parte di una famiglia che si era cercata una casa che aveva occupato con i movimenti per il diritto all'abitare per ben due volte, una volta uno stabile in via Catania, una volta uno stabile al Regina, una volta al Regina Elena, sgomberati tutte e due le volte, e per nessuna delle due volte è stata trovata una sistemazione abitativa per loro. Poi questi quattro bambini muoiono in un incendio perché erano ritornati nel posto che conoscevano meglio, quindi vicino la via Appia. Dopo questa tragica morte, il sindaco Alemanno chiede al ministro dell'Interno 30 milioni di euro per portare a compimento le azioni previste dal campo, dal piano Nomadi. C'è da dire che la situazione di pericolo di questo, dell'insediamento dove la famiglia di questi quattro bambini era andata di nuovo ad abitare, perché era il posto che conosceva meglio, dove evidentemente si sentiva più sicura, ma avevano cercato di abitare in un appartamento, era stata segnalata sia da dai carabinieri di zona sia dal nono municipio, ma per l'accentramento delle azioni riguardanti i Rom e i Sinti nella capitale da parte dell'amministrazione centrale, queste diciamo che il municipio nono non poteva intervenire, perché i municipi sono stati esautorati da alcuni tipi di intervento, per esempio quello dell'emergenza in questo campo, e il comune di Roma ha avocato, il comune centrale ha avocato a sé tutte le possibili azioni. La richiesta del primo cittadino, cioè di avere di nuovo i 30 milioni di euro per portare a compimento le azioni previste del piano Nomadi, vengono giudicate immotivate dal ministero. Facendo una rapida somma, quella del piano Nomadi si rivela un affare di almeno 60 milioni di euro, con circa 450 persone impegnate nella gestione e il mantenimento dei servizi diretti e indiretti che ruotano intorno alle azioni del piano. Se poi la cifra totale viene scomposta per i Rom beneficiari, quelli cioè all'interno dei 7 villaggi attrezzati della capitale, si arriva a un costo mensile pro Rom di circa 500 euro, una cifra doppia rispetto a quella denunciata nel 2006 dall'attuale presidente della commissione sicurezza del comune di Roma, Fabrizio Santori, che 5 anni fa dichiarava, non dall'attuale perché poi è stato eletto alla regione nel 2006, il comune di Roma ha speso per i 5.200 nomadi regolarmente presenti 15 milioni di euro, circa 250 euro a nomade al mese. Si esprime così e noi leggiamo il virgolettato. Il tutto senza considerare i fondi dell'Unione Europea. Una ricercatrice, Cecilia Sgolacchia, snocciola i dati. A conti fatti, l'Unione Europea negli ultimi 5 anni ha erogato in favore dell'Italia quasi 125 milioni di euro, di cui circa un terzo destinati a politiche in favore della minoranza Rom, dei quali sembra non esserci traccia. Dal punto di vista tecnico, dimensioni personale e fatturato, il piano Nomadi è equiparabile a una media grande impresa che soprattutto in tempi di crisi si cerca di mantenere in piedi malgrado le manifeste criticità. Che le lo puro rom, puro rom, te andiamoli a vedere questi villaggi attrezzati, andiamoli a sentire descritti, come succede svariate volte anche da questa voce, come sono i villaggi attrezzati, come si vive nella segregazione razziale nel 2013 in questa città, alla faccia di Roma, città che ripudia il fascismo e quindi la segregazione razziale e quindi il razzismo. Ci sono pochissime voci che si levano contro l'esistenza di questi luoghi della segregazione razziale, nonostante si possa benissimo capire, vedere, e se non si vuole capire, andare a vedere con i propri occhi, magari si può leggere quello che succede. Si può leggere, per esempio, andando sul sito della 21 luglio, oppure digitando in rete come funziona un campo per nomadi a Roma. Le possibilità ci sono, ma comunque andiamo a vedere che cosa succede nei villaggi attrezzati presenti a Roma, che sono Salone, Candoni, River, Gordiani, Castel Romano, Lombroso, Cesarina, La Barbuta. E allora, Salone, che è frutto dello sgombero di svariati campi. Cominciamo con il campo di Salone, e l'ultimo sgombero che lo ha generato è stato lo sgombero dell'acqua, del campo dell'Acqua Vergine. Ma il campo dell'Acqua Vergine, che era un campo che era dotato anche di un numero civico ed era riconosciuto dall'amministrazione comunale, era frutto dello sgombero di due insediamenti principali: uno a Torbella Monaca, dove i Rom e le Romni vivevano prima che venisse costruito il quartiere, e poi del campo per nomadi di Casal dei Pazzi. Vengono messi, è la prima sperimentazione, dicono, e non è vero neanche questo, di etnie diverse nello stesso campo, ma comunque quel campo viene poi sgomberato dal pretore con un ordinato su richiesta del pretore Amendola, perché incide su una falda acquifera. E voglio dire che l'Acqua Vergine incida su un'acqua falda acquifera, è facile intenderlo anche dal nome, però il pretore Amendola prima fa insediare il campo, dopo un paio d'anni ne chiede lo sgombero, perché per il diritto giustissimo, per la tutela ambientale, però per la tutela delle persone un po' meno, perché non viene... perché è così, perché bisognava cercare di dirlo prima, magari che su quel posto non poteva incidere un insediamento umano, perché i Rom stavano sopra una falda acquifera e quindi si inquinava l'acqua. E Candoni è il frutto pure esso di una grossa fregatura. Prima c'erano i Rom che vivevano sul campo per Rom della Maiana, ai quali viene detto: spostatevi che vi facciamo il campo nuovo. Poi il campo invece verrà dato a altre persone che ne avevano sì bisogno, ma per quelle che c'erano prima non viene trovata una soluzione, instaurando da parte dell'amministrazione, allora Rutelli, se non vado errata, una guerra tra poveri. River, il camping River, che viene riempito con le persone Rom sgomberate dai ruderi della fabbrica dell'ex SNIA Viscosa. Ricordiamo ancora il volantino del PD che diceva: trovata una sistemazione dignitosa, vigileremo affinché loro stiano meglio di come stavano qui. Gordiani è un campo e sul quale è stato fatto anche un grosso progetto per sostituire i container con abitazioni in muratura, che sarebbero costate molto meno e sarebbero durate molto di più, ma quel progetto ha vinto svariati premi in Europa, ma è rimasto nel cassetto dell'amministrazione Rutelli e poi delle amministrazioni successive. Castel Romano, nato dallo sgombero voluto da tutte dall'amministrazione centrale, quindi dal sindaco Veltroni, ma anche dal presidente del municipio che non si è opposto, dell'undicesimo municipio. Castel Romano, anch'essa una riserva naturale, dovevano stare lì pochi mesi, poi gli sarebbero state date le case, così sono stati fregati coloro che vivevano nel campo per Rom di Vicolo Savini. Tutti questi sgomberi chiaramente nell'assoluto silenzio di tutta la cosiddetta società civile e di tutta la cosiddetta sinistra antagonista, poi Campo di Lombroso, Cesarino, la Barbuta che nasce con lo sgombero del campo di Via Scintu, Via Scintu praticamente di fronte l'ex l'ex collocamento del decimo municipio. Insomma, questi villaggi attrezzati come sono combinati? Innanzitutto, dentro questi 8 insediamenti vivono almeno 2000 minori. Tutti i villaggi attrezzati sono dotati di una recinzione, alcuni sono provvisti di un sistema di videosorveglianza, di un sistema di identificazione, di un registro di entrata e di un registro di uscita, di orario di apertura per gli ospiti esterni, mentre all'eccezione del River di Salone nessun insediamento è dotato di un presidio sanitario e dispone di un'area adibita al deposito e al trattamento del materiale ferroso e non necessario per le attività economiche di molte persone. Le tipologie abitative sono container, bungalow e roulotte. Le abitazioni sono costituite generalmente da una o due stanze, a volte prive della cucina e del bagno, e rappresentano ambienti estremamente asfittici. All'interno della Barbuta, l'ultimo villaggio costruito a Roma e il primo inaugurato dall'attuale amministrazione comunale, i container sono di 24, 32 e 40 metri quadri, destinati a nuclei familiari di 4, 6 o 8 componenti. Lo spazio personale di ciascun abitante è dunque di circa 5 metri quadri, ma se si esclude la superficie della cucina e del bagno restano meno di 3 metri quadri a persona. Il Comitato per la Prevenzione della Tortura, istituito dal Consiglio d'Europa, ha fissato in 7 metri quadri lo spazio minimo delle celle per ogni persona detenuta in carcere, più del doppio di quanto riservato ai Rom e alle Romni in alcuni insediamenti formali. Le strutture sono rigide in quanto non permettono e non contemplano l'ampliamento del modulo abitativo e quindi della famiglia stessa. In alcuni casi l'allargamento delle famiglie è corrisposto un ampliamento dell'abitazione realizzato dagli stessi Rom, ma viene considerata edilizia abusiva e quindi numerosi sono gli episodi in cui le forze di polizia hanno proceduto all'abbattimento delle appendici delle abitazioni dei Rom giudicate abusive senza curare che queste operazioni si svolgessero nel rispetto dei minori, spesso spettatori della distruzione delle proprie abitazioni e dei beni in esse contenute. Opa! Jamoja! Villaggi attrezzati, il Campin River e Castel Romano, le famiglie reputano che l'acqua corrente non sia potabile. Effettivamente non c'ha un bel colore. Nell'insediamento Cesarina le famiglie non dispongono di servizi igienici adeguati e in quasi tutti gli insediamenti è utilizzata la stufa elettrica come modalità di riscaldamento durante la stagione invernale. In tutti i villaggi attrezzati è previsto per i minori un servizio di sostegno per la scolarizzazione, per il quale il Comune di Roma investe somme inferiori rispetto a quanto stanziato per le attività reputate funzionali alla sicurezza, come la videosorveglianza e la guardiania. I villaggi, anche se progettati all'insegna della presunta legalità e dell'integrazione, distano mediamente più di 2 chilometri dalla prima fermata di autobus, oltre 3 chilometri dalle poste e dal mercato più vicino. Fatta eccezione per Gordiani e Lombroso, tutti gli insediamenti si trovano al di fuori di centri abitati e del grande raccordo anulare. La distanza media dei campi dall'area abitata più vicina è di oltre 2 chilometri, non sempre percorribili con l'ausilio di mezzi pubblici. Nel caso di River, il supermercato più vicino si trova a 5 chilometri ed è necessario prendere ben 2 autobus per raggiungerlo. Nel caso di Salone, il supermercato più vicino si trova a 3 chilometri ed è difficilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. all'interno degli 8 villaggi attrezzati, sono carenti o totalmente assenti gli spazi riservati ai bambini, come ludoteche e dopo scuola. Quando le condizioni climatiche non permettono di giocare all'aria aperta, in assenza di strutture ludico-ricreative, i bambini sono costretti a rimanere all'interno delle proprie abitazioni. Ma d'altro canto, anche se non bisogna mai esagerare con le affermazioni, che se ha un sapore strano una struttura ludico-ricreativa all'interno di un posto che è recintato e videosorvegliato, dove i bambini ludono e si ricreano sempre tra di loro, quindi sempre di segregazione razziale si tratterebbe. Thank you. come avevamo detto a inizio trasmissione, interrompiamo lo spazio che si chiama Roma Roma per parlare sempre di cosa succede sui rom e sui sinti e sulle romine e sulle sinte, in questo caso nella città di Verona. Noi ringraziamo il compagno al telefono, grazie ancora per questa corrispondenza, e quindi gli chiediamo di raccontarci che cosa il Consiglio Comunale di Verona, che è ancora presieduto dal sindaco Tosi, è riuscito insomma ad approvare ieri sera. Sì, ciao a tutte e tutti intanto. Allora, ieri sera in una seduta del Consiglio Comunale di Verona è stato praticamente approvato, è stata approvata la modifica a un articolo del regolamento dell'area di sosta attrezzata per nomadi barra sinti denominata Forte Azzano. È l'unico campo per nomadi rimasto a Verona, ma è un campo ormai diventato stanziale, dove le persone sono lì da parecchio tempo. E, c'è un regolamento molto duro approvato nel 2010 all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale veronese, ma ieri sera è andato in atto chiaramente l'ennesimo provvedimento in salsa razzista di questa amministrazione, in cui uno degli articoli, nello specifico l'articolo 8, che insomma revocava il rinnovo all'autorizzazione a stare all'interno del campo, è stato modificato in questo senso. L'articolo recita così, quello approvato: essere arrestati o condannati anche in primo grado per reati contro il patrimonio, le persone e o la pubblica amministrazione. E questa è una cosa estremamente grave, perché in realtà insomma è una violazione della Costituzione, perché in realtà prima di negare qualsiasi diniego in uno stato di diritto, di solito si aspettano i 3 gradi di giudizio, mentre il Consiglio Comunale di Verona, e non si è capito come mai abbia inasprito ulteriormente questo articolo, non aspetti i 3 gradi di giudizio, ma gli basta il 1° grado per far sì che le persone che vivono ormai in quel campo da anni perdano il diritto di rimanerci. Poi non si è capito se hanno accolto un emendamento del centro-sinistra in cui chiedeva di togliere il termine arrestati, ma è chiaro che se una persona è arrestata nel campo non c'è più, sarà da qualche altra parte, però che le persone che vivono lì dentro perdono il diritto a rimanerci, ripeto, sono lì da anni, solo per una condanna in 1° grado, quando poi magari si scopre che insomma si sono sbagliati, c'è stata un'assoluzione, ma intanto se ne sono andati, questa ha una ricaduta pesante anche sulla famiglia che insomma abita lì dentro. Pensiamo solo ai bambini insomma che vanno a scuola, che perdono questo diritto di rimanere lì. È quindi chiaro che una domanda, questa è propaganda insomma, sì, razzista, e non c'è stato insomma nulla da fare. Cioè il centro-sinistra compatto ha tentato in tutti i modi di far presente che questa è anche una violazione a livello europeo dei diritti delle persone rom e sinti, ma al momento della votazione il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle sono usciti per protesta dall'aula, i restanti 23 consiglieri presenti hanno votato tutti e 23 per l'approvazione di questo emendamento, che ripeto è una modifica dell'articolo 8 presentata dallo stesso sindaco Tosi. Una domanda, quindi basta che un membro della famiglia venga condannato per cui vengono buttati fuori tutti i suoi familiari, o è un provvedimento individuale? Perché allora, te lo chiedo perché allora, invece questo, qui allora, questo funziona così, funziona, chiaramente non è stato un emendamento approvato dal Consiglio Comunale, però io ho anche insomma un cartaceo in cui viene invitata una persona di cui si presume un'attività illegale, quindi neanche certificata, a lasciare il campo per nomadi, lui e tutta la sua famiglia, perché siccome lui ha delle pratiche illegali vengono mandate via 10 persone senza aspettare neanche il primo grado di giudizio. E ti chiedevo appunto se era una cosa individuale o il provvedimento contro il tra virgolette pregiudicato riguardava tutti i familiari. Allora, questo nello specifico non te lo so dire, per cui non vorrei dire insomma delle cose non vere, però ieri sera in consiglio comunale, anche seguendo le commissioni a cui io sono andato, insomma uno degli argomenti era che chiaramente questo aveva una pesante ripercussione anche sulla famiglia. Adesso noi stiamo cercando anche di insomma da un punto di vista legale di capire che tipo di ricaduta ha effettiva. Comunque la persona insomma colpita dal provvedimento ha 48 ore per lasciare il campo. È chiaro che se c'è un capofamiglia o comunque una persona che abita lì e se ne deve andare entro 48 ore e anche dovesse abbandonare lì la famiglia, chiaramente questo crea un grave problema. Certo. A tutto. Poi ieri sera è successo anche che non è stata votata l'eseguibilità del provvedimento, ok? Immediata. Per cui ci stiamo anche qua informando di capire insomma che effettiva ricaduta, perché il regolamento che c'era già prima votato e approvato nel 2010 non è mai stato in realtà applicato, ok, alla lettera, per cui non si capisce in realtà qual è questa motivazione, se non appunto quello che vi dicevo prima, propaganda razzista, il solito rigurgito chiaramente che la base chiede. E ricordiamo che Tosi, che è il firmatario di questo provvedimento, nel 2009 è stato condannato in via definitiva con altri 5 leghisti per propaganda razzista, e che mi pare che fino al 2014, che nel 2014, adesso il termine giusto non lo so, ma scada la recidività del provvedimento. Sì, sì, ecco, sì. Per cui in realtà anche su questo noi ci stiamo cercando di muovere, anche presentando un esposto alla Procura della Repubblica, ma ricorrendo anche in Europa, perché le popolazioni sinte e rom hanno delle specifiche leggi che insomma ne tutelano come minoranze, sì. I diritti. Certo. Oltre a tutte le leggi che insomma dovrebbero tutelare tutti i residenti sul territorio nazionale, esatto. Ci sono pure quelle appunto di tutela delle minoranze. Esatto. Era una cosa che stavamo aspettando già da mesi, perché è una cosa del settembre-ottobre del 2000 e del 2012. Ieri sera, come vi dicevo, insomma si è anche consiglieri dell'opposizione hanno anche tentato di capire del perché di questo inasprimento di questo articolo, ma non c'è stata nessun tipo di risposta. Non c'è un'emergenza rom a Verona, in questo campo credo che siano meno di 200 persone, per cui insomma non è un caso in cui si può gridare all'illegalità. Se poi pensiamo che il primo cittadino di Verona è il primo pregiudicato, il primo forse ad andarsene e a lasciare dovrebbe essere lui, ok? Per cui se dovessimo applicare alla lettera le cose, eppure ciò non è. Adesso cercheremo di capire che ricaduta ha questo articolo sul campo, vigileremo e ricorreremo insomma vedremo cosa potremmo fare da qua in poi. Una domanda: tu sei un compagno del Circolo Pink, ma questa cosa la fate insieme ad altri o soltanto come con questa no, struttura? No, allora il comunicato che poi abbiamo fatto uscire è firmato cittadine e cittadini antirazzisti veronesi, per cui in realtà non è solo il Circolo Pink, ma ci sono tutta una serie di gruppi e persone che in tutti questi anni hanno lavorato sui diritti delle persone rom e sinte a Verona, per cui si muove tutto un movimento di persone, chiaramente non siamo solo noi, sempre in maniera, ecco, devo dire, molto faticosa, insomma, perché l'area veronese è comunque pesante, però riunisce un po' tutto quel movimento che va dal, insomma, dal, dagli, dal, dagli studenti al, ai gruppi antirazzisti, al, al, all'ex centro sociale che c'era qua a Verona, a noi e ad altre cittadine e cittadini che in realtà in questi anni appunto si sono mosse sotto questo profilo. Benissimo, quindi questa è un'ottima notizia, era per questo, era soltanto per, cioè, se fosse stato soltanto il circolo pink sarebbe stata chiaramente una cosa meno condivisa, appunto. Benissimo, ti ringrazio infinitamente di questa corrispondenza e chiaramente seguiremo la cosa, come purtroppo altri atti di razzismo amministrativo che avvengono purtroppo non soltanto a Verona. Delle posizioni della Lega bisognerebbe discuterne proprio tanto, quando ci vogliono dire che ci sono delle cose che hanno odore di fascismo. Del fascismo della Lega se ne parla molto meno, ecco. Sembra sempre una cosa diversa. In realtà ti dico, in questi anni si è notato a Verona un cambiamento dello stesso condottiero che ha portato la Lega alla vittoria a Verona, cioè dell'attuale sindaco, nel senso che sono mesi, se non anni, che lui ha assunto un atteggiamento, tra virgolette, da bravo ragazzo, cioè si è ripulito di tutto il becerume che negli anni ha tirato fuori, ma rimane comunque un fascista, cioè ha cambiato pelle. In Italia frequenta continuamente trasmissioni perché ha un ottimo ufficio stampa che chiaramente gli procura tutta una serie di platee, e lui chiaramente fa di tutto quello che ormai sembra insomma pulito, ne fa un argomento di trasmissione, cioè c'è in atto da mesi ormai questa, come dire, questa pulizia, ma perché probabilmente determinati atteggiamenti palesemente razzisti non se li poteva più permettere, ma di fatto poi le cose vengono approvate. In realtà lui sta dando questa immagine, appunto, come dicevo prima, tra virgolette, da bravo ragazzo, ma rimane comunque un fascista e un razzista della peggior specie. Certo, e se in Italia avessimo, diciamo, un folto numero di giornalisti e giornaliste che cerca consapevoli e libere di scrivere, forse questa cosa potrebbe venire fuori, perché lui ha sicuramente un ottimo ufficio stampa, ma diciamo che le comparsate televisive non vengono imposte, vengono sempre proposte, per cui certo, insomma. Certo, però ti dico, il nostro sospetto è che tutta una serie di notizie che escono sull'amministrazione, su di lui e su tutte le porcate che fanno, siano in realtà scritte dal suo ufficio stampa, che poi vengono passati ai giornalisti dei due principali giornali di Verona, per cui, perché tante cose insomma non si spiegano, cioè determinate cose passano in un certo modo, altre non passano. Certo. Per cui il sospetto nostro è questo, che dietro a tante notizie, a tanti giornalisti, tra tante virgolette, liberi e che fanno informazioni, in realtà non la fanno perché sono al soldo del suo ufficio stampa, o comunque il giornale è al comando del suo ufficio stampa. Sì, diciamo che è un'ipotesi sulla quale continuare a lavorare, perché insomma dei risultati, insomma ci sono delle cose abbastanza evidenti. Vabbè. Noi ti ringraziamo tantissimo, ci sentiamo presto, arrivederci e grazie. Ciao, ciao, ciao, grazie, ciao. Ciao. quindi su questa corrispondenza noi ci apprestiamo a terminare la trasmissione di oggi. Questo inasprimento del regolamento del campo per Rom di Verona, perfettamente in linea con altri regolamenti di campi per Rom in varie città d'Italia, indipendentemente che queste città vengano amministrate da persone di destra o di sinistra, quello che sottende l'idea stessa del campo per Rom è una del campo per Rom attrezzato dall'amministrazione e dalle istituzioni, è quello di una rieducazione di gente che deve essere resa compatibile con la società. Chiaramente su questa, che è un'eredità un'eredità diretta del fascismo, i campi per Rom in Italia li istituì il regime fascista, insieme allo sdoganamento della Lega che venne ad opera del PDS quando esisteva ancora il PDS. Su questo e su altro ne continueremo a parlare sicuramente dai microfoni di questa radio, che antirazzista, antisessista e antifascista e antiomofoba, chiaramente è contro la lesbofobia. Noi finiamo qui alle 11:18 questa porzione di Radio Onda Rossa, invitandovi a rimanere all'ascolto. Sono le 11:18, tra poco speriamo altre corrispondenze, la speranza è che il cellulare prenda, nient'altro che questo, e quindi tra poco altre corrispondenze, altre parole, altra musica fino alle 13, che concluderà la mattinata con il GR della mattinata. Dopo ci sarà Niente da vendere, e dopo Niente da vendere Disorder, dopo Disorder Take It Easy, dopo Take It Easy Le Ore di Religione, poi di nuovo il giornale GR delle 19:30 concluderà la seconda parte della radio. Un'ultima cosa, questa puntata come le altre verrà pubblicata sul sito della radio, probabilmente anche con dei supporti cartacei per avere la riprova, insomma, di quanto affermato in trasmissione, e non solo, per dare anche altre informazioni riguardo la segregazione razziale in questa città e anche nel nostro paese. Dopodiché un saluto a tutti e a tutti, e soprattutto a chi è privata o privata della propria libertà personale. Ricordiamo comunque che ci saranno, che ascolterete anche degli spot riguardo le iniziative in questa città e anche da altre parti di questa fine settimana, e non solo. Questa voce vi saluta, a tra poco con un'altra voce e altre corrispondenze. Mi vorrei star corani. vorrei star con Ani. Oh, allora le 11:30 in punto all'ascolto di Radio Onda Rossa. Allora, concluso Roma-Roma, questa ultima ora e mezza di programmazione mattutina prima del giornale radio. Ci sono varie cose di cui parlare, tutte purtroppo appiattite nell'ultimissima parte della mattinata per una serie di incombenze, necessità di compagni e compagni che dovevamo sentire. Qui cercheremo di fare necessità virtù, sicuramente a partire dal mezzogiorno e un quarto circa fino alle 13 avremo collegamenti con il Tribunale di Roma, dove si sta tenendo l'udienza per l'occupazione dell'8 marzo, vicenda che abbiamo raccontato tante tante volte. Poi ce ne andremo in quel dei Castelli Romani, dove c'è una sorta di super consiglio comunale per parlare dei problemi relativi alle discariche e non solo. Anche lì abbiamo un nostro corrispondente che ci aspetta. Vedremo se parlando di rifiuti riusciremo anche a collegarci con un'altra zona calda per quanto riguarda l'emergenza rifiuti nella nostra città, ovvero sia la zona a nord di Roma. E poi c'è la ovviamente l'appuntamento per Milano domani, il corteo per ricordare il 10° anniversario dell'assassinio di Davide Cesari, Dax. Ne abbiamo parlato tante volte in settimana, ovviamente vedremo se riusciremo a fare una breve corrispondenza anche stamattina. In ogni caso io ricordo che la radio seguirà in diretta il corteo di domani pomeriggio da Milano a partire dalle ore 15 circa. Колиці гармонь, брьовнишки у хати. Ех, та стала мать Росія, улітає в Штати. Дядя Ваня із Казані вдруг проснувся. E questo dunque è un po' quello che ci aspetta in questo termine di mattinata. Poi alle 13 il giornale radio, a seguire alle 14 le selezioni musicali di Niente da Vendere, alle 15:30 quelle di DJ Elettrodo e Disorder. A proposito, tanti auguri. Alle 17.30 Take It Easy, alle 18.30 puntata speciale ovviamente quest'oggi delle ore di religione, alle 19.30 la conclusione del pomeriggio con il giornale radio e lo spazio comunicazione serale. E dunque questo è quanto, adesso diciamo un po' di musica perché almeno fino al mezzogiorno corrispondenti, le nostre, i nostri corrispondenti per un motivo o per l'altro non sono disponibili. Per chi ce lo chiede, intanto questo che sta scorrendo è il signor Yuri Gurzi. E dunque un po' di musica ancora, ma prima di proseguire su questa falsariga musicale, il Remind, pare che si dica così, degli appuntamenti, quello che si sta tenendo proprio in questo momento a Piazzale Clodio, la giornata di domani per DAX, una importante iniziativa di due giorni che si tiene la prossima settimana, Accesso alla Strada, avremo modo di parlarne con calma nel corso della settimana prossima a partire da lunedì. E dunque fiato alle trombe a questo punto e spazio agli spot. La campagna elettorale è passata e la confusione regna nei palazzi della politica. I nostri problemi, però, rimangono gli stessi. I tagli ai servizi, gli affitti inaccessibili, il lavoro precario e mal pagato, la disoccupazione. Continuano ad agitarsi gli strumenti repressivi contro chi lotta per una vita dignitosa di tutte e tutte. Di tanto in tanto si lanciano campagne di criminalizzazione contro chi si organizza al di fuori del teatrino istituzionale, come ha fatto qualche tempo fa di nuovo il Messaggero, prendendo di mira l'occupazione di Corso Italia. Esattamente come avvenne nel 2009, quando, su richiesta di Santori ed altri esponenti del PDL, il Menzognero e il Tempo avviarono una campagna diffamatoria contro noi compagni e compagni di Magliana, che avevamo occupato l'ex scuola 8 marzo. L'impianto accusatorio era talmente ridicolo che le accuse più gravi ed infamanti, associazione a delinquere, estorsione e possesso di armi da guerra, sono cadute all'udienza preliminare. Restano una serie di reati da cui ci difenderemo a partire dal prossimo 15 marzo, giorno in cui si presenterà a testimoniare contro di noi il maresciallo dei Carabinieri, che ha coordinato la brillante indagine. I procedimenti giudiziari a carico di compagni e compagne sono molto e i magistrati emettono sempre più spesso condanne dimostrative, in cui le responsabilità individuali passano in secondo piano rispetto alla volontà di dare un esempio a chi si ribella allo stato di precarietà della vita in cui viviamo. L'uso di reati abnormi, come quello di devastazione e saccheggio, ha portato alle condanne definitive, fino a 15 anni di carcere, per compagni e compagne arrestati a Genova nel 2001 e condanne fino a 6 anni per lì e le arrestate per gli scontri del 15 ottobre 2011. Il nostro pensiero va prima di tutto a loro. Libertà per chi pratica le lotte sociali. Appuntamento per tutte e tutti. 15 marzo 2013 alle ore 9 a Piazzale Clodio. Dax odia ancora. I guerrieri antagonisti e la pratica antifascista restituiscono coscienza ad una vita trafitta. Contro la repressione c'è l'orgoglio del rione. In un pugno chiuso messo dentro. Dax odia ancora. 10 anni senza di te, 10 anni con te. Dax resiste. 2003-2013. Milano, 16 marzo 2013, corteo nazionale antifascista con Dax nel cuore. Infoline per prenotare i pullman che partono da Roma al numero 333-36-66713. Venerdì 8 marzo, ore 19, officine resistenti l'81, via Calpurnio Fiamma 81, metro A Lucio Sestio. Presentazione del libro Raio. Riot, storie di ordinaria resistenza. Ne parliamo con Brega da Milano, Zetart da Napoli, Marco da Roma. Proiezione di La Notte Nera di Milano e Viva Dax Libero e Ribelle, aperitivo a sostegno della campagna 130.000, www.daxresiste.org/130.000. Sabato 9 marzo, Loa Acrobax, Via della Vasca Navale 6, iniziativa a sostegno dei pullman per Milano, alle ore 20 trattoria sociale, alle ore 22 musica e lotte sociali, Chaos for Cause Combat da Terni, Vortex, Flash, featuring Cuba Cabal, più il Nano, punk, elettro, hip hop da Bologna, Pescara e Roma. A seguire Seratone Trash con la Rotas Roma Trash All Stars, special guest DJ Brega da Milano. Domenica 10 marzo, Loa Acrobax, ore 13 pranzo sociale, ore 14:30 incontro di rugby All Reds contro Volsci Rugby Sora, ore 15:30 torneo di basket 3 contro 3, ore 16 Roda di Capoeira, Carcara, Milano. Milano, 16 marzo 2013, corteo nazionale antifascista con Dax nel cuore. Infoline per prenotare i pullman che partono da Roma al numero 333-3666-713. Dax odia ancora. One, two, three, four. Nel revisionismo di una repressione mai esistita, Marina Alberto, testimoni del nulla. Benefit, Genova 2001, CSOA La Strada, via Passino 24, Garbatella. Venerdì 22 marzo, ore 18, dibattito. Diritti fuori legge, lo Stato non ha sempre ragione. Ne discutono col CSOA La Strada, Patrizio Gonnella, presidente dell'associazione Antigone, la campagna 10%, l'avvocato Francesco Romeo, COR, un caso basco a Roma e Radio Onda Rossa. Dalle 19, ricco aperitivo basco a sostegno della campagna Un caso basco a Roma. Sabato 23 marzo dalle 22 la devastazione del rock and roll. Blind Bears, Ita Japan Psycho Glam, Sunglass After Dark, Boogie Hair, Ball Machine, la diabolica perversione del rock and roll, Romanes, Ramones Tribute dalla zozza capitale. Incursioni sonore a cura di Tutti Frutti Apocalypse, DJ Murder Farts, Lubna Barracuda, Rock and Roll, Punk Rock, Surf, Psycho. Iniziativa a sostegno dei condannati e le condannate per i fatti di Genova nel luglio 2001. Sabato 23 marzo, CSOA La Strada, via Passino 24, Free Garbatella. ورشة عمل. هناك ورشتين، الرسم والصباغة، صناعة الخشب، وكذلك صنع الملابس بالصوف. أعمال يدوية، إنها أعمال في متناول الجميع. Laboratorio creativo, due tavoli, disegnare, dipingere e quello che ti va a portare per condividere con le altre. وكذلك مشروبات من جميع الأنواع. هذه الورشة مرتين في الشهر وهو يوم الجمعة من الساعة 6 إلى الساعة 9. والعنوان هو كالتالي: Via di Volci 22. Ogni due venerdì dalle 18 alle 21 in Via dei Volci 22. Vi aspettiamo.